Stai ascoltando Runtime Radio. Belli de casa, benvenuti ancora una volta come tutti i venerdì, addirittura siamo al terzo venerdì di questo mese, è incredibile, chi avrebbe mai detto che ce l'avremmo fatta ad alzarsi tutte queste volte per fare questo programma, il Grande Reset, che vuole essere in questo momento di grande drammaticità una sorta di baluardo di speranza. Noi vogliamo imporci, vogliamo assolutamente fare in modo di obbligare la nostra mente a vedere le cose in una certa maniera. Poi è ovvio che guardandosi intorno è un po' faticoso, perché chiaramente quello che succede è veramente al limite del drammatico. Io penso che ogni generazione abbia avuto il suo, ma questa generazione ne sta vedendo tante tutte insieme, ed è anche vero che poi venivamo da un periodo anche storico dove forse non eravamo neanche più abituati, no? Per certi versi, anche se comunque i drammi dal punto di vista esistenziale, per quanto riguarda magari le sofferenze dei popoli e via dicendo, non sono mai mancate. Ma adesso oggi cerchiamo un attimo di fare un po' un, diciamo, dei discorsi molto generali, molto non superficiali, ma sicuramente in superficie su determinate cose che mi hanno colpito questa settimana. Voi sapete che io vedo, insomma, quello che è intorno a me, poi alla fine tendo a parlarne durante il venerdì, e mi fa piacere poi alla fine comunque ogni tanto magari fare degli interrogativi come quello che abbiamo fatto oggi e vedere se ci sono delle reazioni, ci sono delle risposte, e cercare un po' di capire, di ragionare insieme poi su certe cose. E nel frattempo è uscito Snap Architettura Imperfetta, per qualora coloro, insomma, che magari non si sono accorti, che ancora non hanno acceso il feed RSS dei propri podcast. E bisogna dire una cosa: questa notte, dopo non so quanto tempo, ho dormito con la maglietta, ragazzi, finestra aperta, aria fredda che entrava, veramente stanotte è stato meraviglioso. Ho dormito, che era una bellezza, mi sono messo la maglietta, e avrei potuto tranquillamente coprirmi anche di più, perché comunque le sentivo ancora quel friccichio, roba di genere, però me lo sono voluto proprio godere, cioè nel senso, fammi godere un po' il freddo, insomma, ed è stata una cosa meravigliosa, e per festeggiare ovviamente un po' di energia. E niente, stamattina siamo svegliati così con questo pezzo nel cervello, pezzo che sapevo suonare anche io molto bene con la mia Korg M1. Ah, c'hai la Korg M1 che hai pagato qualche fracchiglione di dollari? Dice sì, ce l'avevo. Allora quindi suonavi una banda? No, assolutamente no, però la volevo, mi piaceva il suono, e quindi la volevo, basta. Questo è l'unico motivo per cui compravo cose in un certo periodo della mia esistenza, insomma, dove compravo le cose perché le volevo, e quindi funzionava così. E non mi pento, non mi vergogno, ma questo passaggio della mia vita, che è stato anche importante, comunque in qualche maniera mi ha insegnato tanto, e quindi ho appreso, insomma, da alcune questioni, limiti del carattere umano e del mio carattere in generale. Comunque andava così, stamattina andava così, ma fra poco mi metto un altro pezzettino che secondo me uno non ascolta mai abbastanza, perché sono quelle cose che tu non metti ogni tanto e quando le rimetti ti si accendono 10.000 neuroni, no, di quelli là. Ah sì, perché io quell'estate ero lì a fare quella cosa lì, che chiaramente non passerà alla storia come il più grande brano hard rock del mondo, però è uno di quei brani che quando lo senti comunque, anche se voglio dire te li ricorderai solo per quello, cioè comunque ti accende un sorrisino. Però prima di passare a questo secondo brano, ho scoperto su YouTube una cosa che mi ha aperto mille interrogativi, e alla fine poi mi sono dato anche delle risposte, perché funziona così, no? Intanto salutiamo Ruggero, che vedo che mette i like, salutiamo Walter, salutiamo Captain Kate Arrow, e ovviamente salutiamo anche Mr. Zero, Zero One, così mi piace Zero, bello, proprio suona proprio da radio, capito? Tonight Zero One, così, boh, vabbè, dico cose a caso. Praticamente mi sono reso conto, anzi non è mi sono reso conto, ho scoperto casualmente, perché poi refreshando su YouTube, che comunque in questo momento, in questa fase della mia vita, il sito che guardo più spesso, proprio perché mi piace proprio esplorare le zozzerie. Per esempio l'altra settimana sono andato in fissa con i POV degli chef di cucina, se tutti quei chef che lavorano, fanno i loro turni in cucina e magari fanno dei video dei 30 minuti, 40 minuti con la loro inquadratura della GoPro in testa, praticamente si vedono loro che cucinano, quindi si vede il ritmo, il coso, cioè tutta la frenesia della cucina, la tecnica, la bravura, il modo in cui sono organizzati, vedi proprio come all'interno di una cucina è tutto bello, bello preciso, bello organizzato, e diceva, mi guardava e diceva, ma cioè, tu puoi passare del tempo a guardarti interamente questi video? Sì, posso, perché mi piace. Poi sono venuti i video dei NAS, dei carabinieri, non so se vi ricordate, su Real Time facevano, non so se lo fanno ancora, quella trasmissione dove facevano vedere sti NAS che bucavano dentro le attività della gente e gli trovavano i sorci, la gente morta, chi dormiva, i garsini sparsi in cucina e cose del genere, veramente cose che se guardandole non ti viene la voglia proprio di non mangiare più al ristorante, ma di non mangiare proprio più, cioè proprio è una cosa. Però insomma sono sempre quelle fissazioni che mi prendono. Però poi alla fine mi è capitato, mi sono capitato di tre canali in maniera particolare che diciamo inizialmente pensavo che dessero notizie, tendendo ovviamente pro Ucraina, di quello che era la situazione della guerra in Ucraina. Uno in particolare, anzi due in particolare, uno con la voce dello speaker che se prende la responsabilità almeno di metterci la voce, e un altro fatto con la sintesi di Eleven Labs, praticamente, dove praticamente raccontano, anche poi tra l'altro in maniera difforme uno fra dall'altro, raccontano praticamente di una guerra meravigliosa e incredibile, dominata dall'Ucraina, che incontrastata vince qualsiasi tipo di battaglia. E io mi domandavo, soprattutto in questo periodo, che va bene, al di là di quelle che sono le decisioni che vorrebbero prendere gli Stati Uniti o che prenderanno gli Stati Uniti, diciamo in questo periodo in cui anche qualche ministro italiano, oppure il primo ministro, il cancelliere Scholz, oppure comunque tutta una serie di personaggi a livello internazionale cominciano non a tirare i remi in barca, però a dire, ragazzi, cioè non è che si può andare avanti così con sta cosa a oltranza, no? Poi c'è un motivo, dopo magari una volta ne parliamo, no? Del fatto che comunque gli Stati Uniti devono distruggere un obiettivo, o distruggevano l'Europa o distruggevano la Russia. Facendo finta di voler distruggere la Russia, hanno comunque distrutto l'Europa, perché poi è questo quello che è successo. Comunque cominciano a esserci delle perplessità, non si può andare avanti così, e poi c'è qualcuno che addirittura ha detto: nessuno di noi ha creduto mai veramente in maniera realistica che l'Ucraina potesse vincere questa guerra, e quindi ovviamente si tende a cercare di riportare tutto quanto su un piano tra virgolette diplomatico, dove l'Ucraina ovviamente debba accettare determinate condizioni e la Russia debba ridimensionare le sue pretese, in modo che si possa ovviamente trovare un compromesso. D'altronde la Russia questa invasione l'ha fatta per ragioni strategiche relative ovviamente al continuare a costruire un cuscinetto tra lei e l'Occidente, e l'Ucraina invece ovviamente avendo comunque sposato a mani basse dopo la rivoluzione, la grande rivoluzione democratica che tutti abbiamo sponsorizzato, che poi in realtà era comunque un manipolo di nazisti che poi sono usciti fuori insomma come tipo dei problemi. Comunque questa situazione ovviamente non può andare avanti così, ma al di là di tutto col dispiacere del fatto che è una guerra, ci sono delle vittime all'interno di questa situazione, sia civili che militari, insomma la guerra è una guerra, ragazzi, non c'è niente da fare, no? Però ogni tanto, capito, si alzano un po' i toni, no? Si abbassano i toni, perché alla fine la gente tende un po' a dire: vabbè, c'è ancora la guerra in Ucraina. E poi si rialzano i toni, poi a secondo di quanto fa comodo ovviamente agli organi di informazione per coprire altre situazioni, tipo ovviamente quello che succede a Gaza grazie a Israele, insomma. E anche qui poi torneremo a parlarne, ma io penso che in una puntata ho già espresso abbastanza il mio neanche sdegno, proprio il mio rancore nei confronti di questa situazione. Comunque ci sono questi canali che praticamente nonostante tutto, e contrariamente alle più realistiche possibilità di realtà, ovviamente raccontano una dimensione, una storia che è completamente fasulla. Cioè, tant'è che ogni tanto ho visto che qualcuno provava a commentare, poi secondo me si sono resi conto di un meccanismo che c'è dietro a questa cosa, dicendo: ma se ogni video che voi fate muoiono dai 1000 ai 3000 soldati russi, se ogni video hanno perso posizioni, hanno perso carri armati, ogni giorno roba del genere, cioè l'Ucraina doveva aver vinto la guerra già 6 mesi fa, un anno fa, insomma, no? Quindi, però, non è neanche tanto una cosa pro-Ucraina, cioè nel senso è proprio, cioè nel senso non è solo un raccontare magari delle fake news, raccogliere, fare collettore di fake news pro-Ucraina, ma è proprio una propaganda proprio di guerra, cioè una cosa di quelle che non si vedevano dalla seconda guerra mondiale, sta roba. E guardando i commenti mi sono reso conto che sti canali poi sono tutti un po' fasulli, cioè sono evidentemente la traduzione italiana di canali ucraini che fanno propaganda di guerra, ovviamente, ma che ovviamente si sostengono in qualche maniera grazie a tutto quello che è l'audience fake, perché comunque hanno un grandissimo numero di iscritti, hanno un discreto numero di commenti, ma i commenti sono tutti dei pattern, cioè a parte i nomi degli utenti chiaramente che sono tutti, e i commenti a pattern sono: buone notizie, viva l'Ucraina, Ucraina slava, Ucraina onore all'Ucraina, a morte i russi, e questi qua che praticamente si commenti che si ripetono in continuazione. Poi tra tutti questi fake ovviamente c'è anche qualcuno invasato che pensa che veramente quella è la realtà, e che tutti noi che diciamo: ragazzi, ma le cose non stanno proprio così, vuol dire che siamo filorussi e che vogliamo uccidere tutti gli... che poi è un po' il discorso: io critico Israele quindi sei antisemita, no? Cioè il principio è praticamente lo stesso. E mi fa ridere questa cosa, perché bisogna riderci sopra. Una volta ci indignavamo un pochino, ma se uno mi dice: ah, ti critichi di Israele, sei antisemita, io gli rido in faccia, perché gli dico: sì, va bene, come dici tu, va bene, c'è un problema, cioè nel senso, dammi tutte le etichette che ti pare, solo che da ride, perché è una roba che va avanti da 70 anni 80 anni sta cosa, cioè non è che se... Comunque, e sti canali sono veramente... pure io ho provato, no, a scrivere una cosa, poi vabbè, cancellano i miei ti rispondono gli invertebrati, quelli che non hanno il cervello, che non sanno scrivere, scrivono con la K senza le virgole, la O con l'H, la O senza H, roba del genere, perché purtroppo è questo quello che si è creato, cioè nel senso. E poi te lo cancellano dopo un po' con quel messaggio, soprattutto se riscuote particolarmente attenzione, insomma. Non vi dico i nomi dei canali, ma cercateli, non è difficile trovarli. E so tutti comunque sta roba di propaganda ucraina, e mi domando, avendo capito come funziona, cioè che è tutto un po' fake, che è tutta una struttura già preordinata, e che sono le traduzioni ovviamente della propaganda di guerra dell'Ucraina, mi domando a che serve in italiano una cosa del genere, cioè qual è lo scopo, qual è il motivo. E con questa domanda vi rilascio al pezzone che vi avevo promesso, che non ascoltate mai, ma quando l'ascoltate vi viene sempre il sorrisetto. Io l'ho, perché ho messo questo Final Countdown subito dopo ovviamente Jump di Van Halen, ma perché semplicemente io le associo queste due canzoni in qualche maniera, perché c'hanno quel riff da tastiera praticamente, che tutti sappiamo suonare, no? È un po' quelle cose che ti sono rimaste impresse. Poi devo dire, gli Europe, non ricordo bene quando sono usciti con questa canzone, ma c'è stata un'estate che ci hanno fatta a culombrina con questa canzone, che non c'era una volta che tu non aprivi il televisore, che non c'erano loro che suonavano questa canzone, o la radio, oppure al posto di villeggiatura dalle casse dell'impianto, no? Insomma, tutti "It's the final countdown", insomma, vabbè, però sono anche legate a bei ricordi, no? A bei momenti della nostra vita, soprattutto perché eravamo giovani. Allora, la domanda che ho fatto io questa settimana è ho chiesto di fare un identikit del giovane di sinistra del 2024 e di cercare di capire in che cosa si riconosce rispetto a un giovane di sinistra degli anni 70 e 80, che aveva l'opportunità di trovare ovviamente dei riferimenti a tutti i partiti di sinistra che erano così preponderanti, forti, avevano una forte posizione e anche soprattutto una forte identità. Intanto salutiamo sia Deborah che Leonardo, che sono già raggiunto ovviamente in chat. E vabbè, no, il Capitan Kate Arrow l'ho già salutato prima, che insomma, giustamente gli sto insegnando la musica, gli imparo la musica. E praticamente che è successo? È successo che ne sono arrivati solo due messaggi e ognuno ha fatto per cazzi suoi, cioè nel senso ognuno ha risposto a una domanda che avevano loro nella loro testa, non è che, però è bellissimo così, devo dire la verità, è bellissimo così, perché comunque anche questa situazione ti dà sempre spunto per poter fare un ragionamento. E sentiamoci un attimo Leo. Ad oggi secondo me un ragazzo che si vuole approcciare ad un ambiente politico lo fa assolutamente all'esterno della politica, non lo fa mai legandosi a doppio filo con un partito, anzi è molto difficile che qualcuno sposi la causa di un singolo partito e magari vada a sostenerlo in maniera forte facendo attivismo, facendo volantinaggio oppure partecipando a determinati cortei legati a quel gruppo. Certo, ci saranno sempre i sostenitori di un partito che andranno a sentire il politico di turno, che batteranno le mani, che lo sosterranno, certo, ma non è come prima. Adesso è più una questione dell'esserci ad un determinato evento, perché quell'evento deve diventare virale, deve andare sui social e tu devi farti vedere che sposi quella bandiera, perché devi metterlo sui social, perché devi far vedere che tu appartieni a quella determinata cosa. Ecco, prima invece non era così, prima era una questione molto diversa. Sarà che magari prima, negli anni 70-80, si stava ancora lottando per determinate battaglie molto importanti che ad oggi, se non sono state risolte, quantomeno sono state incasellate in dei discorsi abbastanza precisi. Anche per esempio, che ne so, le battaglie per i diritti degli omosessuali o dell'adozione e altre cose, per quanto ad oggi sia stata raggiunta una certa, un certo, insomma, un numero consistente di soluzioni a determinati problemi, le battaglie chiaramente non sono finite. Ma le battaglie, quelle che sposano i giovani, i giovanissimi soprattutto ad oggi, sono battaglie più legate ad ambienti più piccoli, a questioni molto più piccole, altresì importanti. Solo che molto spesso, quando la gente magari si scaglia a qualcuno perché non usi pronomi corretti con questa persona, oppure non sei inclusivo nelle cose, oppure hai utilizzato quella parola, così può sembrare una battaglia, per l'appunto, poco importante, stupida, perché vabbè, ma ci sono problemi più importanti. Certo che ci sono problemi più importanti, ci saranno sempre problemi più importanti. Però da che mondo è mondo c'è sempre stata una classe che dice ai giovani che magari cercano il progresso in determinate battaglie, che dicono: voi vi state battendo per questa cosa, ma c'è sicuramente qualcosa di molto più importante a cui dovete pensare. Voi non avete rispetto. C'è sempre questa parola di mezzo, il rispetto. Io penso che l'unica differenza, cioè anzi l'unica cosa che è rimasta uguale nel corso degli anni tra la vecchia generazione e la nuova, è che ci sarà sempre una classe di vecchi che è venuta prima di loro, che li accusa di non essere rispettosi, perché ovviamente i vecchi, che hanno consolidato tutto, che non hanno più la forza di combattere, si devono trincerare dietro questo discorso del fatto che i giovani d'oggi sono un casino, non hanno rispetto, tutto quello che dicono, fanno fa schifo, ai miei tempi era tutto meglio, tutto bello. Poi vai a vedere i loro tempi e anche loro erano irrispettosi, anche loro facevano le cazzate, anche loro facevano casino, e anche loro non erano rispettati dai loro vecchi. Quindi in realtà sì, le cose sono cambiate per certi aspetti, le grandi battaglie ideologiche si sono spostate al di fuori del partitismo, della mera politica fatta nelle aule, e si è spostata negli ambienti social, nelle piazze online, insomma nei forum, e su Reddit, su X, su Twitter, perché X fa schifo da dire. Però sì, alla fine tutto gira e si muove, ma cambia solo la skin, mettiamola così, è sempre tutta la stessa faccia. Allora, a parte sto finale che non è che mi sia piaciuto tantissimo, perché mi ricorda la famosa canzone di Francesco De Gregori che dice: la storia siamo noi, e poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano la stessa maniera, ma è solo un modo per farti stare chiuso in casa quando viene la sera, cioè nel senso è un po' come dire, no, cioè, non ne vale la pena, sono tutti zozzoni. L'ho interpretata così. Però lo spunto di Leo è uno spunto interessante, e questo fa capire quanto poi la domanda di per sé, ossia lo spunto di partenza di per sé, fosse, non dico fallace, però complesso, se rivolto a ragazzi di una generazione diversa dalla mia. Io sono convinto che persone della mia generazione hanno capito il senso della domanda, ma mi piace vedere come hanno interpretato lo spunto ovviamente le persone dell'altra generazione, che sono nate o perlomeno comunque sono cresciute in un ambito dove la politica è diversa, il contesto politico è diverso, il contesto sociale è diverso, la situazione sociale è diversa. Perché, come diceva giustamente Leo, negli anni 70-80 c'erano ancora tante battaglie per le quali ovviamente lottare, e oggi questo fuoco, questa battaglia per i diritti, diciamo in senso più generale, si è un po' subito da un certo punto di vista, anzi oggi c'è un atteggiamento quasi reazionario, no? Cioè, tutti questi diritti che abbiamo, ma che ci facciamo? Viva il duce, no? Un po' questo è il riassunto, insomma, della questione. Però è vero una cosa, quello che dice Leo, il fatto che oggi piuttosto che i macro problemi, i macro diritti, c'è una questione di come dire, di step, di piccole situazioni medio piccole o medie diciamo, tutta una serie di problematiche che i giovani o le varie realtà sociali oggi si trovano ad affrontare, e li affrontano con le armi che ci hanno oggi, non avendo più un supporto culturale e politico da parte dei partiti. Chiaramente trovano praticamente in nuove aggregazioni, nei social o in tutto quello che è ovviamente gli strumenti a disposizione grazie alla tecnologia che c'è oggi e che una volta non c'era, trovano ovviamente la strada per poter fare le loro battaglie, che ritengono assolutamente giuste, in una società che è indiscutibilmente cambiata in 40 anni, ma non è semplicemente cambiata come è cambiata dagli anni 50 agli anni 70-80, ma dagli anni 70-80 agli anni 2024 il mondo è totalmente trasformato dal punto di vista geopolitico, trasformato dal punto di vista tecnologico, trasformato dal punto di vista dell'interazione sociale e delle problematiche sociali, naturalmente. E questo ci ha portato a vivere in un mondo dove noi continuiamo a tenere in piedi dei sistemi che sono i vecchi sistemi democratici di cui ci vantavamo tanto, ma al quale nessuno dà più valore o rispetto, perché non li sentono neanche più. Cioè, la gente si pensa che il mondo viene coordinato tramite altri sistemi, altri mezzi, ed è probabilmente quello che sta realmente succedendo poi fondamentalmente. E più c'è questo atteggiamento, questa impronta, questa visione non più conciliante, basata sul dibattito democratico, sul trovare insieme la soluzione all'idea di che c'ha quel governo, no? Perché è giusto che un governo porti avanti le sue idee, no? Però una volta funzionava così: io propongo la mia linea politica e si discuteva tutti insieme e si limava praticamente quelli che potevano essere determinati spigolatori. Questa cosa oramai dall'era Berlusconi in poi è completamente sparita, perché ovviamente si va avanti a suon di decreti, e poi l'opposizione del governo che governa tramite decreti dice: ah, che schifo, stanno insultando il Parlamento, hanno degradato il valore del Parlamento. E poi alla fine vedi che quando vanno al governo loro fanno la stessa cosa, e quell'altra opposizione: ah, il valore del Parlamento. Il problema di fondo, secondo me, è che oggi ovviamente non c'è, cioè, nel senso, ecco, come dice Walter, sono abbastanza d'accordo su questo, oggi c'è una destra profondamente identitaria e non esiste più una sinistra. Quindi il mio interrogativo era: come si riconosce, come si identifica anche con se stesso un ragazzo che a un certo punto si rende conto nella sua vita che la sua visione è una visione di sinistra? Perché io non credo al fatto che sinistra e destra oggi non abbiano più senso, anzi, in un contesto dove la sinistra non esiste più, chiaramente, in rispetto a, ovviamente, a un'epoca in cui la sinistra era totalmente forte. Ma se la destra è entrata dentro le fabbriche, dentro le scuole, nei circoli, nel dopolavoro, nei circoli anziani, nelle televisioni, in tutte quelle realtà sociali che la sinistra ha completamente abbandonato, perché è talmente impegnata a discutere di chi si deve mettere sulla sedia di destra piuttosto che la sedia di sinistra, è ovvio che questo è una logica e normale conseguenza. Quindi noi sono anni che auspichiamo il ritorno di un certo tipo di politica, di un certo tipo di atteggiamento, che non è quello di avanti popolo e via dicendo, ma riportare il confronto in quelle situazioni sociali, in quelle realtà sociali dove ovviamente siamo stati assenti per tantissimo tempo. Siamo, perché poi alla fine e io mi ritengo una persona di sinistra, l'ho sempre detto, sono una persona d'estrazione socialista, socialdemocratica, vengo dal Partito Comunista, sono stato iscritto e ho votato le mozioni ovviamente della trasformazione del Partito Comunista in Partito Democratico della Sinistra. Quindi io faccio parte di quella generazione che non soltanto era seduta comodamente all'interno di un contesto ideologico e politico, ma che ci si riconosceva pure profondamente, riccamente, insomma. E quindi, prima di passare al secondo intervento, ci sentiamo una canzone. Questa volta ho scelto questa canzone che purtroppo, per chi sta sui social, sente molto spesso, però c'è un motivo. Comunque a me dispiace molto per la storia di questo cantante, e questa canzone, che comunque sì, è un po' melenza, però è anche molto bella. this time I fear there's no one to save me. This old and nothing used to be, and so were you loved. Walter mi chiede, vabbè, insomma, alla fine è colpa tua, Simone, è colpa di tutti quei Simone Pizzi che dei Christian Spaccapaniccia o dei non lo so, tutte le persone che conosco che hanno abbandonato il proprio posto, che sono usciti dalle trincee, che hanno si sono levati ovviamente il vestito di coloro che lottavano, che a un certo punto sono scesi dalle posizioni dei propri partiti, magari con l'amarezza, magari con la delusione, pensando che noi il nostro l'abbiamo fatto, mo so cazzi vostri. Tutti coloro che hanno lasciato i posti di combattimento, da un certo punto di vista, hanno lasciato spazio agli altri, a quelli che sono venuti dopo. E quelli che sono venuti dopo non sono quelli che avrebbero dovuto essere, che magari prendevano il nostro posto, ma erano altri che venivano da altrove, che hanno veramente preso posizioni che ci appartenevano. E poi è colpa nostra perché siamo usciti dalle piazze, perché siamo usciti dalle fabbriche, perché abbiamo pensato che era più intellettualmente valido e più sensato dal punto di vista istituzionale e politico dimostrare che non siamo più quella sinistra brutta e cattiva che vuole il comunismo, ma siamo una sinistra liberale, siamo una sinistra che guarda l'economia, che siamo una sinistra che ogni tanto strizza anche l'occhio ai padroni, no? E quindi in questa cancellazione dell'identità, ovviamente la gente si è un po' persa per strada, e giustamente così. Poi sono nati tutti quei movimenti, la Rete Viola, il Movimento 5 Stelle, che sono tutti fulcro, sono tutti l'effetto dello stesso sintomo in certi versi. Poi Leo fa anche un riferimento specifico alle questioni generazionali, ma ci tornerò su questa cosa perché poi ne parleremo. Sentiamoci invece Michela. Ciao, io sono De Paola Michela e sono una giovane persona di sinistra, più o meno, ce la possiamo fare, insomma. Sono ancora annoverata tra le giovani leve di sinistra, e sono qui per rispondere alla domanda su come vive e vegeta, non me la ricordo bene, come sopravvive un giovane di sinistra in questa baraonda. Un giovane di sinistra che cerca in qualche modo di vedere cosa succede e di capire cosa succede. Ha sicuramente perso la fiducia in tutto quello che erano gli ideali con cui è cresciuto, perché ha visto molti dei suoi compagni tradire molti ideali in virtù della, non solo gli ideali, tradire proprio i loro principi in virtù dei soldi, della gloria, della pagnotta, e quindi ha visto la sinistra crollare. Ha visto la sinistra morire, ha visto la sinistra in mano a persone come Renzi e chi che sia, e quindi sta vivendo un grande, grande, grande, grande sconforto. Ma ha anche visto, come me, quei posti in cui quella sorta di sinistra per cui grandi personaggi hanno combattuto e hanno fatto in modo che l'Italia fosse parte della storia. Pensano che forse non c'è, cioè pensano che forse c'è ancora speranza, nonostante si illudono che c'è ancora speranza, nonostante sanno benissimo che i personaggi che purtroppo fanno parte di questa sinistra adesso non sono in quest'epoca storica, non sono più i personaggi politici di una volta, i personaggi diciamo così, non hanno più la caratura e la personalità di quei personaggi che comunque in qualche modo ci garantivano che la sinistra fosse presente. Io non penso assolutamente che Elish Lein stia portando la sinistra, stia mantenendo la sinistra in Italia, che il PD stia facendo qualcosa di sinistra, e quindi vivo questa sorta di lutto, di lutto interiore, però faccio di tutto affinché il mio pensiero di sinistra, il mio pensiero progressista, continui a lottare e non si arrenda. Quindi fondamentalmente io dico questo, che i ragazzi di sinistra ancora esistono e che prendono delle caragnate, delle batoste impressionanti. Probabilmente alcuni di loro non hanno mai visto neanche un personaggio valido, un vero personaggio di sinistra, quindi non hanno mai respirato quell'atmosfera in cui davvero ci potevamo definire di sinistra. Però hanno studiato, hanno preso il libro in mano e hanno vissuto quell'epoca in questo modo. Quindi largo ai giovani, come dice Leo Varga, e dai, e prima o poi sti fascisti de merda crolleranno tutti. Ok, con l'auspicio finale di Michela, che ha lasciato la preoccupazione nei cuori di tutti. E allora, secondo me non è vero che non esistono oggi persone con una grande caratura politica, una grande capacità politica. Il problema è che sono noiosi. Cioè, nella società dei social è noioso uno che ti fa un discorso e fa un ragionamento in proporzione a un ministro della Repubblica che dice: ah, la signora ha cercato un negro, non si fa, però è colpa del negro, cioè, perché questo è il messaggio, no? Quindi poi, ovviamente, nella estrema sintetizzazione, più ovviamente la gente è abituata a percepire tre parole piuttosto che 15, e più ovviamente queste altre persone, quelli che sono abili a fare questo tipo di politica, se ne avvantaggiano, no? Perché comunque già pure loro sono capaci a dire 5 parole, quindi insomma portarle a 3 non è che gli sia tanta difficoltà, insomma. Mentre che ovviamente chi ha qualcosa da dire e che ha comunque una struttura di pensiero anche dal punto di vista politico e anche validità politica, ovviamente non può reggere il confronto in questo tipo, perché non c'è il dibattito. Cioè, se noi vediamo il dibattito presidenziale degli Stati Uniti d'America tra Trump e Harris, tra due persone che si contendono la poltrona più potente del mondo, lo Stato, la nazione che influenza tutto il resto del mondo, sono andati avanti a suon di slogan. Vabbè, Trump ce l'aveva con gli haitiani che si mangiano i cani e i gatti, e lei ovviamente che faceva tutta una retorica sul noi siamo i più buoni, noi siamo i più belli, ovviamente, no? Quindi ti rendi conto che la politica non esiste più. E se esistono dei ragazzi di sinistra, ed esistono, perché io seguo tanti movimenti che sono direttamente e concretamente ispirati alla sinistra, anche quella tradizionale, è ovvio che oggi fanno fatica, se non a scendere giù in piazza e a protestare, a prendere le manganellate, perché oggi non sia mai che tu esprima delle opinioni, delle considerazioni, oggi non si può fare una cosa del genere. Oltre a fare quello, diciamo, fanno fatica ad organizzarsi in dibattiti, assemblee, forum, perché la gente si rompe il cazzo, perché abbiamo diseducato per 30 anni la gente, e quindi ricostruire delle generazioni che abbiano un rapporto con la politica e con la discussione, perché poi lo diceva Walter proprio ieri sera nelle orazioni della sera, cioè la gente, allora io non penso che tutti gli italiani pensino che l'imprenditrice che ha subito lo scippo della borsa e poi ha acciaccato e ammazzato l'extracomunitario che l'ha scippata abbia fatto bene. Io non penso che tutti gli italiani la pensano così, però quelli che la pensano così oggi si sentono legittimati, e perché sono in grado di fare a malapena un 0,5 de pensiero, cioè pensione che se tu gli dici 1 più 1 fa 2 e 1 più 2 quanto fa, già lì entrano in crisi. E questo è il problema che si è veramente venuto a creare. Quindi come fai a discutere con una parte della popolazione che è quella che in questo momento, per colpa dei social, è la più attiva? Come fai a discutere con loro quando magari c'è tre quarti della popolazione che magari c'ha un'evoluzione di pensiero più articolata, che però ovviamente magari è lontana dai social? Quindi è un po' un discorso un po' complicato, però io sono abbastanza fiducioso sul fatto che comunque una sinistra dal basso, una sinistra dai giovani, si sta riorganizzando. E non è importante che sia la sinistra quella che riconosco io, può essere anche una sinistra diversa, può essere semplicemente un grosso movimento progressista che riesca a trovare dei punti comuni e discutere invece di stare lì sempre a litigare sulle cazzate perché Renzi vuole il suo 1,3%, quell'altro Calenda andassero tutti a fanculo, no? Comunque dai, è stato interessante sentire le vostre opinioni, poi mi leggerò bene il resto della chat perché ho visto insomma che avete scritto molto, avete dibattuto tanto. Vi lascio, prima dei saluti finali, voglio far sentire una canzone che voi sapete che io lui lo odio. Lo odio perché per me è stato un traditore ideologico, un traditore politico e soprattutto perché ultimamente, ecco, quella storia della ragazza disabile che lui ha insultato, gli faceva al concerto, ragazzi, una cosa, cioè dovremmo bandirlo questo qua dalle nostre radio. Però voglio farvi sentire una canzone che mi è venuta in mente stamattina quando parlavo con Michela, che dice: ah dai, viene finalmente arrivato il fresco. Io dico: la voglia, il fresco fino a ottobre, insomma, ogni tanto le botte di caldo arriveranno. E mi è venuta in mente questa canzone qua, non so se va, ricordate, le ragazze di Monaco, lucciole spente con il naso all'insù, cercano il sole tra le nuvole opache, senza colore si raccontano piano un amore italiano. E poi mano nella mano ammazza merda sta canzone. Quando ero ragazzino mi piaceva pure perché c'era quel friccicorio delle ragazze di Roma abbronzate ad ottobre, ragazzi, che bello. Vabbè, siamo stati giovani, ma io non sono di quelli che dice: ah, quando ero giovane io, quando era bello, ma tutte stronze. A me non me ne frega un cazzo, io sono una persona che vive tranquillamente nel proprio tempo e con grande serenità guarda con piacere il sorriso al passato, ma poi ovviamente si gode anche quello che è il presente e speriamo anche il futuro, perché poi non si sa mai quello che succede tra oggi e domani, ma anche questi cazzi. Io vi ringrazio di essere stati con voi, vi annuncio, ragazzi, che venerdì prossimo torna Runtime by Night, quindi gente come Deborah, Leo, siete avvisati, eh? Quindi non oggi ovviamente, ma il prossimo venerdì torniamo con una puntata di Runtime by Night ogni 15 giorni. Stiamo ragionando su quando far partire la nuova stagione di Pop Corner, perché Gualdi c'ha impicci, c'ha impegni, quindi dovremo forse Pop Corner andrà il lunedì e poi Mono andrà il martedì, vediamo, adesso ci organizziamo, siamo un po' in ritardo. E poi da ieri è partita l'organizzazione di un grande progetto di Runtime Radio, di cui ora non vi posso parlare, ma insomma un bel documento di preproduzione diciamo preliminare, che porterà ovviamente poi a una bella cosa che spero otterrà il sostegno di tutti, per i quali cercheremo ovviamente sponsor, quindi già ve lo diciamo. Detto questo, grazie a tutti, grazie a Deborah, grazie a Leo, grazie a Ruggero, grazie a Walter, grazie a Samuel, grazie a Vincent Valentine e grazie a tutti quelli che ci sono stati. Ho visto anche Christian, che però ha detto che raccoglie, che lo ascolta più tardi, e grazie a Mr. Zero. Grazie a tutti, mi raccomando, sia un inizio di fine settimana piacevole e gagliardo con ste nuvolone che hanno praticamente completamente oscurato l'universo, però è stato bello così. Dormi con la maglietta stanotte, è stato veramente meraviglioso, grazie a tutti e ci vediamo, anzi ci ascoltiamo venerdì prossimo con il grande reset. Da Simone Pizzi è tutto, ciao e buona giornata. Strictly I am, strictly I am, strictly roots and culture, straight from channel 1 Rastafari.